Incontri di Gianfranco Fabi. Viviamo, viviamo negli eti codici che la bellezza rifiora e la fuggevo, fuggevo ora si deriva voluta. Viviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché con questo tradizionale inno al vino, Liviane Lieti Calici, della Traviata di Giuseppe Verdi, la voce di Luciano Pavarotti, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Sandro Boscarini. Buonasera a tutti. Un inno al vino, Sandro Boscarini, direi una vita che la sua vita è un inno al vino, presidente di Federvini, presidente di Masi Agricola, tra l'altro ne parleremo, Masi Agricola proprio questa settimana ha fatto il suo ingresso alla Borsa Valori e quindi è una vita vissuta per il vino, nel vino e diciamo anche con soddisfazione. Sandro Boscarini. Sì, devo dire di sì e francamente non saprei che altro mestiere fare se non quello del vino. Sono nato in una famiglia di viticoltori, di razza antica di viticoltori e di produttori di vino, rappresento la sesta generazione dal 1772 quando la proprietà appunto di Masi è passata nelle mani dei Boscarini. I miei figli fanno ora la settima generazione e io devo dire che pur non avendo quando ero giovane granché voglia di fare quello che faceva mio padre, ma poi sono stato tirato dentro in un vortice dal quale non vorrei più staccarmi. Respirando l'aria del vino, l'aria dei vigneti, respirando poi, ecco, non ha detto dove siete voi. Per noi siamo in Valpolicella, cioè nella zona che sta tra Verona e il lago di Garda, nelle colline della Valpolicella, zona bellissima, zona un po' defilata rispetto alle vie del traffico, zona che è rimasta molto ancorata ai suoi valori, alle sue tradizioni, a un territorio bellissimo che richiama un po' la Toscana, una Toscana del nord, se pensiamo che anche Dante Alighieri è vissuto e ha lasciato la sua stirpe in Valpolicella. Dal 1353 il figlio di Dante ha comprato la casa e i vigneti, i terreni insomma dove probabilmente il padre ha vissuto, non è storicamente provato, ma da allora la discendenza di Dante è ancora in Valpolicella e noi abbiamo l'onore di avere appunto i vigneti della famiglia e dei conti Seregolieri che fanno parte del nostro gruppo. E quindi anche una vicenda antica che ha le sue origini molto al di là delle oltre le sette generazioni, è secolare la coltivazione del vino dalle vostre parti, avete trovato appunto dei reperti anche storici che dimostrano come diciamo nell'anno 1000 e dintorni si coltivasse già la vite. Assolutamente, ma devo dire già prima, perché i romani producevano in quella zona delle prealpi, chiamiamolo così, si chiama i Monti Lessini e le colline dei Monti Lessini nell'area di Verona, producevano il reticum, il famoso reticum, che è detto essere il vino più importante del regno, dell'impero, dopo il Falernum che si produceva appunto vicino a Napoli. E il vino retico, devo dire, si produce anche oggi, si chiama Reciotto, e anche l'assonanza viene da lì. Poi Reciotto Amarone, oggi Tucur Amarone, ma è ancora fatto sostanzialmente usando la stessa tecnologia, cioè facendo un lungo appassimento delle uve nel periodo invernale, appunto per far acquisire alle uve nello stesso tempo concentrazione zuccherina, cioè maggiore anche alcolicità da una parte, ma dopo, e questo è il più interessante, inducendo naturalmente con il lungo processo di appassimento quelle variazioni microbiologiche all'interno dell'acino che portano poi a dei sentori particolarissimi di frutta sovramatura, di frutta cotta e sapori molto interessanti e profumi molto interessanti, per cui l'amarone è apprezzato in tutto il mondo. Ecco, l'amarone è uno dei vostri cavalli di battaglia. Sì, in particolare Masi è conosciuta per l'amarone, anche se produce altri vini, ma sempre nella regione. Noi siamo convinti che le nostre radici sono nella regione, nel Veneto e nella regione di Venezia, che parla il dialetto dell'antica Repubblica di Venezia, e noi siamo convinti che dobbiamo essere essere messaggeri di quella cultura, di quel territorio. Ecco, lei ha detto appunto che lo stesso Amarone ha delle radici antiche, un modo di essere lavorato che viene da lontano, però c'è innovazione anche nel vino. Assolutamente sì, difatti io continuo a dire, e lo dico avendone anche riscontro giorno dopo giorno in tutte le parti del mondo, l'Amarone come è oggi è un vino moderno dal cuore antico, mantiene il suo cuore nelle uve che sono uve autoctone nel suo territorio, in questo metodo originalissimo di produrre, ma anche nei sapori, nei sentori che sono per certi versi demodé, però sono un po' vintage, come si dice oggi. Ecco, rubiamo un po' lo spazio alla rubrica di Davide Paolini, con cosa lo abbinerebbe la Barone? Beh, insomma, c'ha dei piatti molto caratteristici. C'è per esempio il risotto all'amarone, che è uno dei piatti più tipici del veronese, e se uno viene a Verona è bene che vada in certi ristoranti di tradizione e prova un risotto che non c'è dubbio è unico, oltretutto perché è prodotto con un riso che è tipico della bassa veronese, il vialone nano. Ma poi ci sono appunto i brasati all'amarone, la pastissada dei cavalli, perché non ha remore, con carne di cavallo, è un piatto medievale del veronese, ma dopo devo dire con tutte le carni rosse, in particolare quando sono conciate in un certo modo, con funghi o col tartufo, che le rende ancora più importanti. Ma dopo è un grande vino anche da conversazione, da fine pasto o da formaggi, anche formaggi sostenuti e piccanti. Ecco, adesso faccio una domanda a Sandro Boscarini come presidente di Federvini: come sta andando il mercato del vino in questo periodo? Beh, devo dire che il mercato del vino va bene, l'immagine del vino italiano è veramente primaria nel mondo e non c'è più dubbio. Oggi ci sono due comprimari, il vino francese, che ha una storia molto più antica, parlo di storia di commercializzazione, del nostro, ma noi ci siamo a fianco, anzi per certi versi e in certi mercati la freschezza del nostro vino, nel senso non del vino come prodotto, no, ma proprio la freschezza, il messaggio nuovo, certo, che dà il nostro vino, messaggio di territori, la varietà enorme che c'è in 20 regioni con 20 culture diverse, le varie uve che sono molto numerose in Italia, uve autoctone originali contro quelle francesi che sono più polarizzate, diciamo, fa sì che il nostro vino sia veramente oggi a un momento apicale nel consumo e nella richiesta dei consumatori. Cioè ha saputo aggiungere la qualità, che tradizionalmente è la qualità ottima, anche una capacità di marketing, assolutamente, una capacità di avere un'immagine diversa. Ed è, devo dire che è un vino simpatico quello italiano, ecco, e si può avere il vino da tutti i giorni, ma anche il vino importante, si passa da una varietà enorme di espressioni ed è ben apprezzato nel mondo. Allora, questa è una grande acquisizione di status che non c'è dubbio che ci deve inorgoglire, però non ci deve rinchiudere in noi stessi e farci dormire sugli allori. Ci sono delle problematiche. Una delle problematiche forti è il grande frazionamento produttivo. Parliamo di decine di migliaia di piccoli produttori, in molti casi molto bravi, per carità, ma mette il sistema in un certo affanno quando affrontiamo mercati nuovi, certo, per esempio parliamo della Cina, o mercati più difficili, per esempio quello della Russia. Noi siamo andati molto bene nei decenni scorsi, trainati dalla grande importanza della ristorazione italiana nel mondo. Oggi questi mercati sono ancora mercati molto importanti per noi, ma altre cucine entrano, il mercato si rende sempre più difficile. Ecco, i nuovi mercati noi facciamo più fatica perché appunto non siamo attrezzati ad affrontarli in maniera... Certo, piccolo è bello, ma fino a un certo punto. Fino a un certo poi punto, è bello, sì, soprattutto se cresce, se riesce a diventare competitivo, se certamente riesce ad avere una forza d'urto. E allora bisogna, per fare questo, bisogna che ci sia una capacità imprenditoriale che fa sì che il piccolo abbia l'ambizione di crescere. E magari andando anche in borsa valori, come ha fatto Masi Agricola, ma di questo parliamo nella seconda parte del nostro programma. Restate con noi, con Sandro Boscarini, presidente di Masi Agricola e presidente di Federvini. A tra poco. Incontri. Viviamo nei dolci freni. ancora con questo invito a alzare i calici in segno di gioia, di felicità, dalla Traviata di Giuseppe Verdi, di Bianne Dieti Calici, la famosa voce di Luciano Pavarotti, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Sandro Boscaini, presidente di Emasi Agricole, presidente di Federvini. Abbiamo parlato nella prima parte appunto anche del mercato del vino, del fatto che Emasi Agricole abbia delle grandi tradizioni anche nel passato, ormai è la sesta, settima generazione con i figli di Sandro Boscaini, il vino che sta avendo ancora successo a livello internazionale, anche se dicevamo nell'ultima parte appunto ci sono problemi di dimensioni, le aziende italiane sono mediamente piccole e non hanno molte la capacità di andare sui mercati internazionali, dove invece c'è una domanda in crescita, una domanda di qualità che sarebbe molto ben accetta appunto per i vini italiani. Federvini quante aziende riunisce? Com'è il settore italiano del vino, Sandro Boscaini? Allora, Federvini riunisce, devo dire, la parte un po' più importante dal punto di vista delle espressioni quantitative del vino. Molte aziende, molti brand del vino di qualità, sono alcune centinaia, ecco, e devo dire che si fanno dei discorsi molto seri, appunto coerenti con questa necessità di proporre il vino italiano nel mondo, coerenti con il fatto che il settore del vino italiano ha bisogno di essere più competitivo anche attraverso la dimensione, certo, ma anche attraverso lo sfoltimento di molte di questi adempimenti burocratici che lo tengono un po' legato. Devo dire che chi vuol correre è come corresse con un sasso legato alla è gamba, uno zaino, ecco, pesante sulle spalle. Per cui noi ci battiamo affinché, per carità, ci siano i controlli, e i controlli sono importanti, e nel vino italiano una delle sue forze è anche questo sistema, devo dire, che gli dà sicurezza, gli dà solidità e che è riconosciuto in tutto il mondo. Però quando dal controllo si eccede nella burocrazia o burocratizzazione, certo, del controllo, si va oltre. Allora si alimentano corpi estranei che sopravvivono al controllo solo per mantenere se stessi, e questo non va bene, perché appunto toglie capacità di muoversi velocemente e anche mezzi, perché divora mezzi economici che fanno perdere tanto tempo e tanti mezzi. Il problema, abbiamo detto, delle aziende piccole, delle aziende troppo piccole per stare sui mercati internazionali. Per affrontare questo problema le strade sono due: o le aziende si uniscono, si concentrano, oppure crescono. Ecco, voi avete scelto la strada della crescita anche con la quotazione in borsa, siete la prima azienda vinicola che si quota in borsa e siete entrati proprio questa settimana, una settimana un po' turbolenta per le borse, ma il settore comunque dovrebbe, anche il vostro settore resistere anche a queste turbolenze. Quindi, al di là dei risultati immediati, la scelta di entrare in borsa da cosa è stata determinata? Allora, è una scelta, devo dire, meditata, perché quando si parla di vino e di finanza è come parlare del diavolo e l'acqua santa. Per certi versi posso capire perché è nato ed è maturato questa tipologia di refrain. Ecco, chiaramente il vino ha i tempi della natura, la finanza ha altri tempi, però devo dire che personalmente non mi intimorisce oggi come oggi, forse mi avrebbe intimorito 50 anni fa. Oggi come oggi l'importante è sapere con precisione cosa si vuole e rimanere saldamente al timone, non, certo, farsi guidare o comandare dalla finanza. La finanza deve essere un mezzo e non deve essere un fine. Come la finanza l'andiamo a prendere nella banca, perché no andarla a prendere nel mercato saltando l'intermediatore, che è poi la banca o altri merchant bank e altri sistemi, e avere un colloquio diretto guardando negli occhi chi investe nella tua azienda. Certamente sono decine di soggetti, alcuni saranno più portati di altri a capire quello che fai, ma quando gli dai il risultato alla fine tutti devono essere contenti, e comunque se non sono contenti rimane sempre un sistema, divento io padrone di me stesso. Ecco, ma devo dire che vista in quest'ottica, cioè il business del vino e la natura della produzione del vino è una cosa e deve essere lasciata fare da chi la sa fare. Nel caso nostro, decenni o addirittura centinaia di anni e generazioni che hanno selezionato i propri vigneti, le proprie uve, che hanno fatto le proprie cantine, che hanno creato un brand di importanza globale. Siamo presenti in 90 paesi del mondo con il 90% di export, più del 90% di export, Questo è il cuore del nostro lavoro. La finanza è il mezzo che ci aiuta a sfruttare al meglio tutta questa, diciamo, quello che abbiamo finora raggiunto e consolidarlo nel migliore dei modi. Ecco, la finanza vi dà i mezzi necessari per fare quell'innovazione di cui parlavamo prima, innovazione che è anche un settore tradizionale, un settore fortemente radicato sul territorio con metodi di lavorazione secolari, però ha bisogno di innovazione, ha bisogno di, anche di ricerca, ha bisogno di sviluppo, ha bisogno anche di innovazione sotto il profilo del prodotto, sotto il profilo della qualità, sotto il profilo del marketing, sotto il profilo della commercializzazione. Quindi le risorse necessarie, se si vuole crescere, ci sono, ma hanno anche la prospettiva di essere remunerate. Certo, in effetti, ecco, sono emersi qua due generi di innovazione: innovazione nel prodotto e nei sistemi produttivi e innovazione nel modo e nelle modalità di portarli nel mercato, e sono più importanti. Altro tema poi è appunto la finanza per lo sviluppo, perché non è detto che dobbiamo rimanere sempre e solo in queste dimensioni. Se il mercato chiede di più, dobbiamo dare, sempre nel rispetto di quello che è il nostro DNA, essere produttori di vino di qualità, selezionando eventualmente altri vigneti vocati e della stessa qualità, o allargando nelle zone e creando quel bouquet più ampio che copra le varie espressioni vinicole di un'area come la nostra, il Veneto, che è molto ricca di espressioni vinicole, e non tutte sono nel nostro, nella nostra proposta attuale. Ma vorrei soffermarmi sull'innovazione appunto nella produzione. È vero, oggi c'è bisogno di ricerca. C'è bisogno di ricerca perché il vino nel mondo ha fatto passi da gigante, perché oggi non è più la sfida e la battaglia tra Italia e Francia nella vecchia Europa. Oggi la sfida è globale, il vino si pianta tutto nell'emisfero sud, dappertutto, l'America Latina, anche addirittura l'America quasi centrale, ecco, l'Australia, certo, il Sudafrica, il nord dell'America, anche questi la sono California, mercati, certo, di produzione, ecco, che si affacciano nel mondo. E da un punto di vista tecnico e tecnologico e da un punto di vista dei costi hanno dei vantaggi enormi, dovuti appunto alle dimensioni, dovuti alla tecnologia, dovuti molto anche alle risorse finanziarie, cioè, e al costo molto inferiore della terra. Cosa manca a loro? A loro manca invece quello che è la ricchezza nostra europea, in particolare italiano, l'emozione che viene dai nostri vini, che è palpabile nei nostri vini e viene dai nostri territori, dalle storie antiche dei nostri territori e da una cultura, certo, che è unica e originale. Ecco, il Made in Italy in questo ambito funziona ancora, così come funzionano anche le denominazioni di origine controllate, protette, sono qualcosa di funzionale allo sviluppo di questo mercato del vino? Non c'è dubbio, è stata una scelta fatta anni fa, una scelta molto illuminata, quella di ancorare il vino, come anche molti altri prodotti alimentari, al proprio territorio, prendendo delle ricette, chiamiamole così, antiche, anche nel fare il vino, certo, e dandogli la patente, diciamo, del proprio territorio, in modo che uno, comprando un vino di territorio, immagina già quel territorio, le condizioni climatiche, le condizioni di terreno, la tipologia di persone che vivono nel territorio, ed è questo, è emozionante anche per me quando arrivano degli stranieri da noi e hanno prefigurato nell'assaggio del vino quello che poi vedono, oppure l'opposto, vedono e poi ricordano quello che hanno visto di piacevole nelle nostre colline, nelle nostre bei vigneti, nelle cantine, nella storia delle pievi o delle ville che sono in Valpolicella, e le rivivono assaggiando il vino. Questo è un valore aggiunto del Made in Italy, dell'agroalimentare e del vino in particolare. Ecco, io però vorrei sentirmi dire da un produttore di vino che comunque il vino va bevuto in modica quantità, in quantità giusta e quindi di qualità migliore. Non solo da un produttore di vino, ma anche da presidente di Federvini. Devo dire, il vino è comunque un prodotto alcolico, è un prodotto che Dio ci dà per la gioia dei nostri gusti, dei nostri sensi, però bisogna bere con moderazione, e c'è tutto un progetto anche che si lega al bere in moderazione, ma anche ad avere un tipo di dieta, uno stile mediterraneo di vita, che è uno stile poi di semplicità, di non abusare di nulla, per cui bere il giusto per la gioia del bere, per un arricchimento fisico e spirituale, ma senza andare incontro a problemi. Posso fare un paragone sicuramente temerario: il vino è come le tasse, un po' va bene pagarle, ma se sono troppe poi danno veramente fastidio. Direi di sì. Però ecco, in questa prospettiva forse è meglio un bicchiere, anche per consolarsi un po' delle tante difficoltà che abbiamo. Quali sono le prospettive? Avete qualche obiettivo immediato nel prossimo futuro, oltre che ovviamente a consolidare la vostra attività? Qual è il suo sogno nel cassetto? Ma il mio sogno nel cassetto è che effettivamente il vino italiano riesca a fare quel passo importante per cui questa, diciamo, emozione di cui abbiamo parlato prima possa essere, attraverso le strutture aziendali, la gente delle aziende che va nei mercati, possa essere portata più vicino possibile al consumatore, in modo che riesca non solo a godere della fisicità del prodotto, ma anche di questa immaginazione, di questa fantasia, di questo volo pindarico che poi si sprigiona dal bicchiere e ti fa vedere un mondo che è dietro la bottiglia e che è invece nelle zone di produzione. Se riusciamo a far questo, io penso che il vino italiano riuscirà veramente a consolidare la sua posizione di privilegio e ad essere messaggero di una cultura che è una cultura antica, che è una cultura bella, che è una cultura di serenità e di positività. Allora possiamo concludere augurando a quanti si ascoltano di brindare, di libare degli eticalici con del buon vino, ma è anche con qualcosa per cui brindare. Grazie mille. Grazie a Sandro Boscaini, presidente di Magia Agricola e presidente di Federvini, di essere stato con noi questa sera. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.